C'è un'isola incantata, sempre baciata dal mar, dove ogni donna amata il cuore sa incatenar. Dal mare alla montagna è un rifiorir di fiori, e i fiori della Sardegna sono sinceri in amor. Bruna isolana, sirena bruna, guarda che notte serena, guarda che luna. Scende dal tuo Gennargentu la dolce nenia di un canto. Son tutti pastori del monte, gelosi del vento che invocano te. Bruna isolana, sirena bruna, bella sei come nessuna, bruna isolana. Tebano son le chiome che al sole sanno brillar, ognuna un dolce nome, nome che fa incatenar, ed ogni cuore incerto attende il giorno del sì, e tra il profumo del mirto spera cantando così. Scende dal tuo Gennargentu la dolce nenia di un canto. Son tutti pastori del monte, gelosi del vento che invocano te. Bruna isolana, sirena bruna, bella sei come nessuna, bruna isolana.